Benvenuti alla sesta puntata di Cialtroni nello spazio. Cialtroni nello spazio, la fantastica trasmissione informatico-culturale che noi ragazzi del circolo proponiamo sulle fantastiche frequenze di Radio Onda d'Urto. E questa è la nostra fantastica sigla. Abbiamo una puntata densissima, Alessandro fa gli scherzi, una puntata densissima di notizie di ok, allora la scaletta di oggi ce la dice subito Francesco. Ma sì, è un compito in realtà di Alessandro quello di fare la scaletta del giorno, però come annunciato nella scorsa puntata, che speriamo sia andata in onda, parleremo oggi di Radio Autistici, un progetto. Dopodiché parleremo brevemente, insomma brevemente per modo di dire, dei brevetti software, e se ci sarà tempo anche presenteremo un software pienamente compatibile con Microsoft Word, ovvero il famoso programma di videoscrittura che si chiama OpenOffice, nella sua componente appunto di videoscrittura. E questa canzone invece che canzone è, Alessandro? È una canzone scaricata dal sito musicagnula.org e dei Mexic 1 e si chiama Argomonti. Come annunciato, iniziamo a parlare oggi del progetto di radioautistici.org, che fa parte appunto tra i vari, insomma, progetti che fanno capo al circuito Autistici Inventaci, di cui magari ne parleremo più ampiamente in altre puntate. Oggi ci dedichiamo alla componente radio, ovvero un circuito di radio che trasmettono online e che hanno tutti come riferimento un po' il circuito di Indie Media, di cui abbiamo parlato in una delle precedenti puntate, e la voglia, insomma, di fare radio. Tra queste, no, c'è Marco che voleva fare una domanda. Ma hai parlato di radio online, cos'è che significa? Dobbiamo prendere la nostra radiolina che abbiamo in bagno e attaccarla al nostro telefono? No, non si tratta esattamente di questo. Grazie per la domanda, che permette in effetti di spiegare che cos'è una radio online. Una radio online è una radio che trasmette via internet, che è possibile ascoltare attraverso un software che è appunto di ascolto, come può essere lo stesso, anche probabilmente molto, cioè al 99% dei casi è lo stesso programma che utilizzate per ascoltare la musica sul vostro computer. Conviene avere una connessione a internet veloce per poterla ascoltare con una qualità decente, e non è detto che la ascoltiate con una qualità decente, perché dipende molto anche da come viene trasmessa e non solo dalle condizioni di ricezione. Diciamo che le radio online riprendono un po' anche lo spirito delle prime radio libere degli anni 70, che trasmettevano via etere senza avere il permesso, senza insomma essere legali. Molte radio che trasmettono online, di cui la maggior parte di quelle che trasmettono sono online del circuito di Radio Autistici, non hanno una registrazione legale, non sono registrate legalmente. Tra tutte queste radio, poi io vorrei in particolare, tra qualche minuto ci collegheremo con una radio di Milano, che è Radio Reload, che è una radio che ha un po' anche l'ambizione di arrivare a essere trasmessa in etere. Quali sono le funzionalità di una una radio online non solo quella di essere ascoltabile nel momento, ma rompere anche un po' il concetto di essere nel qui ed ora, quindi una dimensione dello spazio consecutiva nel tempo lineare, che quindi si può ascoltare solo in un preciso momento e se non la registri non la puoi più riascoltare. In realtà la maggior parte delle radio online hanno anche lo scopo di creare degli archivi per permettere agli ascoltatori di ascoltare le cose più interessanti nel momento in cui vogliono, che è un po' anche una cosa che è stata ripresa da varie altre emittenti che insomma si sono dedicate anche alla possibilità di mettere a disposizione magari i servizi più carini o le interviste più interessanti sul loro sito web e permettere di ascoltare. Questo permette non solo agli utenti finali di ascoltare le cose che vogliono nel momento in cui vogliono, ma anche e soprattutto rende fruibili il materiale di una radio alle altre radio che fanno parte dello stesso circuito. E questo lo facciamo anche noi, nel senso che sul sito l'annuncio, attenzione, arriva l'annuncio, alla sesta puntata ce l'abbiamo fatta quasi, nel senso che quando ascolterete questa puntata dovrebbe essere disponibile sul sito www.circolab.net l'elenco delle puntate che abbiamo già registrato, scaricabili e con una breve descrizione degli argomenti trattati e dei link utili a completare, diciamo, la parte informativa, e oltre a una piccola descrizione di cos'è questa trasmissione e lo storico delle vecchie trasmissioni degli anni passati. Inoltre sarà possibile... No, non c'è lo storico delle vecchie trasmissioni degli anni passati. No, lo storico degli argomenti. E una bella lapide. Esatto. Sarà comunque presente, soprattutto la parte più importante, un form, ovvero uno spazio dove potrete inserire un nome di riconoscimento, una mail se volete, e dei commenti da inviarci, delle domande soprattutto, in modo da creare una sorta di interazione. Poi vedremo in futuro. Quindi anche noi diventiamo una radio online? No. Noi forniamo dei servizi online, del materiale. Non siamo una, o meglio, Radio Onda d'Urto è già una radio online, nel senso che streama già, nel senso che se andate sul sito di Radio... Streama? Sì, cioè che fa quella cosa che rende possibile ascoltare la radio in diretta dal computer, quindi se siete, non so, in America, in Australia, dove vi pare. Abbiamo un ascoltatore molto fedele in Francia, in effetti, guardando nei log della radio c'è sempre qualcuno che ci ascolta da Parigi, sappiamo anche chi è in realtà. Comunque, attraverso il sito di Radio Onda d'Urto, www.radioondadurto.org, è possibile, attraverso il link Ascoltaci, cliccare sul MP3 e si aprirà lo stream per ascoltare la radio in diretta. Va bene, ma basta parlare di noi, adesso noi qualche secondo di musica e poi ci colleghiamo con una di queste radio che fanno capo al circuito di radioautistici.org, in particolare con Radio Reload che trasmette da Pergola Move a Milano. Siamo ora in collegamento con un attivista di Radio Reload che trasmette dal centro sociale, spazio sociale un po' particolare, che è il Pergola di Milano, per chiederci di raccontare proprio questa esperienza di fare una radio online, quindi una radio che trasmette solo via internet e che al momento non dispone ancora di una frequenza. Ciao! Ciao, buonasera. Innanzitutto mi stuzzichi tanto perché hai detto ancora non dispone di una frequenza, perché noi abbiamo assolutamente in progetto di andare anche nell'etere, proprio perché riteniamo il web insieme con l'etere assolutamente necessario per far passare i nostri contenuti e le nostre idee, come del resto fa anche Onda d'Urto e tante altre radio che noi consideriamo nostre sorelle. Sì, per il momento abbiamo cominciato come web radio, in realtà in un certo senso dalle ceneri della prima Radio Reload, che è nata l'anno scorso, come già hai anticipato tu, all'interno di Pergola, che venite a vedere che cos'è, è uno spazio sociale sicuramente, più che un centro sociale, e il primo progetto Reload nasce fondamentalmente come un progetto tecnico, a base tecnica soprattutto, per sperimentare una gestione pressoché automatica attraverso il software Soma di un palinsesto, più qualche sperimentazione di alcune dirette, come è stato per esempio in occasione del COP9. Quest'anno abbiamo deciso di rilanciare e di metterci veramente in gioco in prima persona, quindi con delle trasmissioni dal vivo, e soprattutto voglio aprire il più possibile alla città e anche alle altre situazioni. Quindi non identifichiamo assolutamente Radio Reload come la radio di Reload, ma come una radio che vuole essere una radio cittadina e anche oltre la città, soprattutto attraverso rapporti con altre radio. Infatti un punto sul quale assolutamente vogliamo battere è quello del networking, che passettino dopo passettino stiamo portando avanti. Non ultima c'è stata proprio una collaborazione con Radio Onda Rossa, che resta una radio storica all'interno delle radio di movimento, che proprio ha condotto una diretta con noi, o meglio ci ha fatto l'onore di fare una diretta con loro. Bene, quindi abbiamo coinvolto un po' di persone, all'inizio un po' così, quasi con il porta a porta, anche da altre situazioni che hanno avuto voglia di raccontarsi, alcuni con un'impronta un po' più emotiva e individuale, e altri invece portando quello che era il risultato di un lavoro politico di gruppo, come per esempio nel caso dei migranti, che fin dal principio hanno scelto di avere un loro spazio di chiaramente di comunicazione delle tematiche che più stanno loro a cuore, e anche poi di espressione culturale, proprio per far conoscere quelle che sono le varie esperienze delle diversissime tra loro comunità migranti. Chiaramente una cosa molto importante per noi è stata anche quella di far conoscere una serie di strumenti, quindi far capire che fare radio è difficile, ma forse meno di quello che si immagina. E quindi ci abbiamo tenuto a spiegare totalmente il funzionamento di una radio, producendo anche dei piccoli documenti che spiegassero come una persona radio se la può fare pressoché in casa, anche se noi preferiamo farla sicuramente in una maniera più socializzante, e quindi all'interno di uno spazio comune e non privato. E questo l'abbiamo fatto anche tramite la festa che abbiamo fatto a gennaio, e che è andata veramente veramente molto bene, con una grossa partecipazione. Abbiamo organizzato dei workshop, abbiamo tenuto la nostra piccola regia totalmente autocostruita, aperta tutta la giornata, ma a dire la verità veramente con un forte interesse. Senti, sì. Volevo chiederti una cosa, perché fare radio è un conto, poi ascoltarla è un altro, quindi diciamo che la grandezza, la forza delle radio negli anni 70, dagli anni 70 in poi, è stato proprio l'uso sociale, cioè il poterla ascoltare ovunque. Ascoltare sì. Una radio online invece è un po', in un certo senso, è un limite, nel senso che ti lega davanti a un computer. Quindi mi chiedevo, ha più senso fare una radio che trasmetta in continuo, o una radio che ti metta a disposizione per esempio delle interviste, o per esempio degli approfondimenti, e ti permetta di scaricarli quando ti interessa di più ascoltarli dal punto di vista dell'utente? Ma guarda, io mi ricollego a quello che ho detto all'inizio, quando parlavo della falsa dicotomia etere o web. Penso che le due cose assolutamente non si escludano, penso che sia estremamente importante rendere il più fruibile possibile quello che si produce, per cui una cosa è fare la radio, diciamo, di continuo, ma non esclude assolutamente, anzi deve includere al suo interno la necessità di rendere fruibili poi le eventuali registrazioni, piuttosto che la piccola intervista che magari abbiamo avuto voglia di andare a fare in mezzo alla strada in occasione di una manifestazione, o anche per chiedere alle signore del quartiere Isola quello che pensano degli ultimi cambiamenti a livello urbanistico e sociale, soprattutto quelli che arriveranno. Anche per questo poi a quel punto diventa molto importante, come tu ben sai, l'uso di un sito, e quindi anche in questo caso spiegare come queste cose possono essere utilizzate e al tempo stesso proprio andare contro il digital divide, per cui magari avere la voglia di mettere banalmente due casse fuori a pergola, per cui la gente se vuole può passare e sentire. Quindi vabbè, ritornando alla questione web o etere che invece c'era all'inizio, e continuo a dire, noi assolutamente vogliamo anche andare nell'etere. Riguardo invece la questione della fruibilità dei prodotti, chiaramente poi includiamo anche quella che è la fruibilità dei prodotti altrui, quindi la voglia di passare i nostri contenuti attraverso un lavoro di networking, attraverso sia quindi un lavoro di networking con altre radio a livello nazionale, ma anche attraverso le altre piccole, piccolissime web radio, che forse potrebbero essere chiamate più correttamente addirittura trasmissioni piuttosto che web radio, che esistono soprattutto nel territorio lombardo, che sotto questo punto di vista è assolutamente vivo e pieno di iniziativa. E quindi abbiamo anche in mente proprio di partire con un sito in comune, un mount point in comune, quindi un indirizzo di streaming che sia comune e che però non escluderà poi i singoli indirizzi di streaming, per scambiare ancora di più, per valorizzarsi reciprocamente ancora di più. Questo progetto ancora non ha un nome, però restate in ascolto perché così avrete un po' di notizie anche su questo. E quindi dopo questa intervista a Zanzara del gruppo di Reload, noi adesso passiamo al prossimo argomento e la parola va a Marco, che sarà tempestato da questi suoni che ci arrivano in cuffia. Allora, ciao a tutti. Allora, siamo qui per parlare dei brevetti software. Brevetto, più o meno tutti sanno che cos'è, tipo... Non è vero. Allora, che cos'è un brevetto? Io sono un inventore geniale e ho inventato... Perché ti chiederemo anche che cos'è il software, attenzione. Mi osteggiate. Allora, ad esempio, io sono un inventore geniale e invento lo stritolo agrumi, che è un oggetto che permette di aver dato un agrume, di stritolarlo e di buttarlo via, insomma, con l'invenzione genialissima. E decido che questa invenzione sarà, secondo me, l'invenzione del secolo. E allora vado in ufficio brevetti e dico: ok, questo, ho inventato questo stritolo agrumi e non voglio che nessun altro mi rubi l'idea, e quindi deposito la mia idea. Questa cosa sembra, cioè questa cosa è, funziona così da, penso, secoli in Italia e nel mondo, e 200 anni tipo, ed è sempre funzionato, vabbè, relativamente bene. Cosa succede quando invece qualcuno decide di creare dei brevetti relativamente al software? Beh, c'è da sottolineare, il brevetto è una cosa che vincola sia il prodotto finito che il metodo di lavorazione, e questa è la sostanziale differenza. Appunto, quindi se una persona vuole poi costruire quell'oggetto che io ho inventato, dovrebbe pagare i diritti a me, oppure non può farlo, diciamo. Quindi c'è, diciamo, una sorta di divieto, appunto, nel produrre la cosa che è già stata brevettata. Per quanto riguarda i brevetti software, negli Stati Uniti, dove hanno iniziato un po' di anni fa con questa storia dei brevetti software, il trend iniziale è stato cominciare a brevettare le cose ovvie, le cose che nessuno aveva ancora brevettato e che erano, diciamo, alla base dell'informatica. Trasponendo questi brevetti software nel campo musicale, sarebbe come se qualcuno si fosse deciso a brevettare gli accordi, per cui, diciamo, se io brevetto l'accordo di Do maggiore, a quel punto qualcuno che vuole fare musica e qualcuno ha concesso il brevetto sul Do maggiore, lui non può fare musica col Do maggiore, deve inventarsi qualcos'altro. Capite che questa cosa si va al paradosso per cui una persona non potrebbe teoricamente più scrivere musica, perché gli sono stati brevettati tutti gli elementi base su cui può lavorare. Ecco, facendo un paragone si può anche dire che comunque il software è un insieme di formule matematiche, di cose, di ragionamenti di questo tipo, quindi sarebbe come brevettare le tabelline o sarebbe come brevettare le formule matematiche che ormai da secoli vengono utilizzate sui libri di scuola, come se qualcuno per scrivere un manuale di matematica dovesse pagare il diritto di insegnare le tabelline o appunto queste formule, o sbaglio? Sì, esatto, è proprio così, è un altro esempio che è calzante, diciamo. Allora, vediamo come funziona questa storia dei brevetti europei. C'è un ufficio brevetti europeo che esiste da non so quanti anni e da un po' di anni ha deciso di accettare, anche se in Europa non erano ancora vari i brevetti software, di accettare comunque i brevetti sul software, per cui ci troviamo ad oggi che in Europa non c'è una legislazione sul software, ma abbiamo già qualche migliaio di brevetti registrati e il 75% di questi brevetti in Europa sono stati registrati da società americane. Si tratta sempre di brevetti software, ovviamente. Ricordiamo che in Europa, come in Italia, il software viene vincolato a licenza sotto copyright, che è la stessa cosa che viene utilizzata per i libri, la musica e così via. Che è una cosa molto diversa dal brevetto, appunto perché non è legato al metodo di produzione, ma è legato solo e esclusivamente al prodotto così com'è, quindi di fatto non è possibile duplicarlo così com'è, però è possibile ottenere gli stessi risultati con altri metodi. Quindi viene applicata lo stesso metro della produzione intellettuale, artistica, e non di quella industriale, che è il motivo per cui è nato il brevetto. Però, appunto, visto che negli Stati Uniti oramai i brevetti software sono, diciamo, sono oramai un dato di fatto, alle grandi aziende americane è molto scomodo avere questo posto che si chiama Europa, dove non ci sono questi brevetti software, per cui loro non possono andare a imporre e a tassare delle invenzioni ovvie già fatte in modo appunto da trarci dei profitti. Vabbè, sono delle storie dell'orrore a proposito di brevetti software di cui tutti potete immaginare l'entità. Per esempio, quando aprite una pagina web, una pagina di un sito internet, lì dentro ci sono degli oggetti che sono già stati brevettati da vari brevetti appunto software, tipo, non so, le immagini sullo sfondo che si muove, oppure la possibilità di acquistare con carta di credito, il link, ovvero sia quell'oggettino con la parolina scritta di un colore diverso, e quando ci clicco sopra col mouse mi porta in un'altra pagina. Ecco, tutte queste cose sono già state brevettate, ma ovviamente non dall'inventore della cosa, ma da un'azienda tipo la Microsoft, IBM, la Fujitsu o la Siemens o qualcun altro, che ha deciso di prendersi la paternità di questa idea. Esattamente, perché un'altra caratteristica fondamentale dei brevetti è proprio che il costo per brevettare un'idea è molto elevato, quindi è raro che una persona singola, un inventore, riesca a sostenere questo genere di costo, e invece molto più probabile che direttamente o indirettamente cerchi finanziamenti verso chi glieli può dare, quindi grandi aziende che lavorano nel settore. E oppure finanziari. E diciamo, allora la domanda che viene in mente a tutti è: ma scusami, ma l'ufficio brevetti quindi accetta dei brevetti che esistono già? Logicamente verrebbe da dire no, l'ufficio brevetti dovrebbe verificare che una cosa non sia già stata inventata. E invece no, prendendo il modello americano, l'ufficio brevetti accetta tutto. Arriviamo a dei paradossi, tipo l'ufficio brevetti australiano, che ha accettato il brevetto della ruota come meccanismo volvente per facilitare il movimento attraverso rototraslazione, qualcosa del genere. Ovvero sia, la ruota è stata brevettata in Australia. In Europa nessuno sarebbe divertito a fare una cretinata del genere, però non siamo molto lontani. Appunto, dicevamo che le grandi lobby dell'informatica sta spingendo in tutti i modi per riuscire a far passare questi brevetti software in Europa. e loro, il loro ideale sarebbe appunto di farli passare senza nessun riferimento al fatto che l'invenzione deve essere una reale invenzione, che non deve essere già stata inventata da qualcun altro, non sia una roba di uso comune. E mentre in realtà questa legge, che deve essere decisa dal Parlamento europeo, nelle prime sessioni di seduta durante due presidenze europee fa, quando era il semestre di presidenza irlandese nel maggio del 2004, appunto c'era stata una forte discussione su questi brevetti software, e l'idea alla fine, il risultante era: sì, accettiamo i brevetti software, ma erano state poste tutta una serie di emendamenti che andavano a limitare appunto l'uso sconsiderato e senza senno del brevetto software, ovvero sia deve essere una nuova invenzione, non deve essere una cosa di uso comune e altre cose. E soprattutto deve avere una sua struttura organica, nel senso che non si può brevettare l'icona della linea paragrafo a sinistra o del copia e incolla, che sono ormai icone di uso comune, quindi devono essere dei prodotti più articolati, non... perché ovviamente sotto i brevetti software possono cadere anche le interfacce, quindi tutte quelle cose con cui noi siamo abituati a interagire, e ovviamente questo è estremamente rischioso, perché potrebbe togliere da i risultati di 20 anni di lavoro di aziende commerciali, come anche di comunità e degli stessi utenti che nel tempo hanno selezionato le soluzioni più adeguate. Potrebbe spazzare via tutto o comunque rendere molto più difficile la sua produzione, il suo utilizzo. A quel punto, dopo che il Parlamento europeo prende tutte queste belle decisioni, spetta a quel punto al presidente di turno dell'Unione Europea stilare appunto il progetto di legge. Questa cosa non viene fatta dal semestre di presidenza irlandese, ma viene bensì fatta negli ultimi giorni di dicembre, quando si è già passati al semestre di presidenza Nederland, ovvero sia olandese. Ok. Però la proposta cancella completamente tutto quanto era la discussione parlamentare e inserisce una regola, una legge, la proposta è: i brevetti software devono essere accettati e basta, senza nessun emendamento, quindi cancellando tutto l'iter parlamentare. E questa legge viene infilata dentro un pacchetto che deve essere votato dai ministri della pesca, della caccia, della comunità europea. Ok, qui gente ride, però questa cosa è stata realmente fatta, per cui i presidenti della caccia e della pesca europei dovevano decidere se accettare i brevetti software. Grazie a Dio c'è una nazione che è entrata a maggio a far parte dell'Unione Europea, si chiama Polonia, e il ministro polacco della pesca alza la mano e dice: sta roba qua non ha senso. Soltanto alzare la mano e dire questa roba non ha senso va a invalidare il processo, va bene, la taglio breve, praticamente soltanto alzando la mano e chiedendo che il procedimento venga discusso ulteriormente va a annullare la votazione su questi brevetti software. Per questa cui, procedura accelerata. Esatto, a dicembre ci salviamo dai brevetti software. E arriviamo quindi a dire fondamentalmente grazie Polonia, perché se la Polonia non avesse alzato la mano non so se qualcun altro l'avrebbe fatto in quel periodo. A quel punto, visto il casino incredibile che andava a crearsi su brevetti software, c'è stato un forte movimento di gente che ha cominciato appunto a informare i propri parlamentari della situazione, appunto anche del tentativo maldestro di scavalcare l'iter parlamentare. E appunto, però il problema cos'è? Che ovviamente tutte le lobby del software, vista la prima sconfitta, si sono dette: ok, diamoci una mossa. E quindi la Siemens, la Ericsson e altre ditte hanno fatto forti pressioni contro la Polonia in modo che non si lamentasse più di questa cosa per non fare passare i brevetti software. E infatti la Polonia ha dichiarato di recente che lei non si opporrà più ai brevetti software. Viene però a quel punto il turno della Danimarca, che dice: no, noi ci opporremo ai brevetti software. E a quel punto salta fuori quel simpaticone di Bill Gates, che è il proprietario della Microsoft, che dichiara: ah, se in Europa non passano i brevetti software come li vogliamo noi, noi siamo costretti a licenziare 800 persone che appartengono, che lavorano in una ditta consociata dalla Microsoft, appunto della Danimarca. E cioè praticamente si mette a ricattare il governo danese dicendo o smettete di dire noi siamo incontro i brevetti software, altrimenti noi denunciamo 800 licenziamo 800 persone. Beh, la tecnica consolidata da multinazionale, diciamo che ormai la tecnica USA in quasi tutti i ricatti aziendali, le ristrutturazioni, gli esuberi, i famosi esuberi di personale e così via. Vista in un altro modo è sempre la stessa tecnica. Le motivazioni di questa minaccia sono senza senso e sono anche state dimostrate da molti siti internet che appunto hanno analizzato che cosa producevano in quella ditta e le cose che otterrebbero dai brevetti software. Bill Gates, che poco tempo prima aveva dichiarato che tutti quelli contro i brevetti software erano dei comunisti, e questo in parallelo con quella dichiarazione del nostro presidente del consiglio che dà dei comunisti a tutti. E niente, altra situazione, l'Olanda, anch'essa dice no, noi siamo contro i brevetti software così come li volete far passare. A quel punto la Philips e altre ditte si attaccano l'Olanda e gli dicono no, voi non dovete far così. Insomma, c'è in atto una guerra tremenda per quanto riguarda i brevetti software in Europa. Da una parte ci sono tutte le multinazionali che vogliono aumentare i loro profitti, ovviamente andando a tartassare tutte le piccole e medie imprese, e dall'altra non si sa bene chi c'è, ci sono quattro cretini, tra cui noi qua in radio, che stanno parlando di questa cosa. Per fortuna non sono tutti cretini quelli che stanno parlando di questa cosa, anzi io per concludere questa parte, se sei d'accordo Marco, leggerei un pezzo di un articolo di Andrea Monti, un avvocato che si occupa di diritti delle tecnologie, diritti civili in rete e di open source, che tra l'altro è anche il presidente dell'Associazione per la Libertà nella Comunicazione Elettronica Interattiva. Ecco, questo articolo di Andrea Monti dice a un certo punto: ci sono delle ragioni molto serie per non utilizzare lo strumento del brevetto per proteggere i programmi in quanto tali, e che dipendono dalla natura stessa del software. Lo sviluppo di una killer application, di framework, di librerie e via discorrendo non passa necessariamente attraverso gli investimenti miliardari in ricerca e sviluppo che caratterizzano ad esempio la ricerca farmaceutica o industriale. La storia dell'informatica in realtà è piena di software di successo che non sono stati realizzati secondo le logiche produttive classiche dell'industria, ed è proprio questa la ricchezza economica e commerciale dell'informatica del software, la possibilità di accedere a una base di sviluppatori incredibilmente enorme, cosa che non sarebbe più possibile una volta che venisse imposto il brevetto, perché per questi ultimi sono spesso utilizzati come strumenti per frenare piuttosto che promuovere l'innovazione. Tanto per fare un esempio, se una piccola azienda ha un brevetto vincente rispetto alla tecnologia di un concorrente più forte, quest'ultimo può, ed è accaduto, acquistare il brevetto e poi buttarlo nel dimenticatoio in maniera perfettamente legale. Certo, si può dire che questo è un uso distorto della protezione riservata della proprietà intellettuale, che in realtà il brevetto serve ad altri fini, ma non cambierebbero i termini della questione. Non tutti possono permettersi un centro di ricerca e sviluppo, chiunque può prendere un PC e fabbricarsi una chance di successo. Non si capisce perché a un programmatore dovrebbe essere negata questa opportunità. E per chi ne vuole sapere di più e vuole anche aderire alla petizione che è stata organizzata contro i brevetti software europei, il sito è petition, scritto petition.eurolinux.org basta così. Everybody saying, gotta write a hit song. You know the radio didn't ease those woes. Traffic move way too slow. Everybody says it's just how it goes. You got friends like enemies, enemies foes. So back to you, again and again. I bring a little warmth to the shame of the fame, and I'll make it smooth. It's all about respect. A tender love and touch to send the shivers up your neck. The way you make me feel, the way you make me feel. E rientriamo subito perché stiamo un attimo sforando con i tempi e prendiamo subito il nostro scaletta, l'ultimo argomento, che è appunto Open Office, ovvero Open Writer, il programma di videoscrittura per diciamo libero, creato da quelli di Open Office. Sì, ecco, parlando per le persone comuni che non capiscono, che non capiscono molto di informatica, potremmo dire che è l'alternativa libera a Word, e forse questa è una cosa un po' più comprensibile, dai. Ce lo concediamo. Allora, iniziamo subito dando il link, che è it.openoffice.org, se volete direttamente vedere la versione italiana del sito. E da cui potete scaricare il programma. È un po' grande, quindi ecco, una cosa che consigliamo e che magari dovremmo ricordare più spesso è che la maggior parte di queste cose si trovano spesso facendo un semplice giro in edicola, in riviste che magari costano 4 o 5 euro. Per chi non avesse una connessione veloce, curiosando un po' in questi posti si trova facilmente molto software libero, sia per Windows che per Linux. Dunque, OpenOffice è, anzi Writer, è molto simile a Word, nel senso che potete fare tutte le cose che normalmente potete fare con Word. Accetta, legge e scrive i formati doc senza nessun problema, o meglio, ha alcune problematiche legate alla versione di Word con cui è stato scritto il documento. In particolare non è in grado di rendere allo stesso modo di Word le scritte come i banner, le scritte modificate o cose del genere, cosa peraltro poco utile in Word, per cui esistono strumenti più efficaci. Beh, però al posto di fare subito l'elenco delle cose che non funzionano, parliamo anche delle cose che vanno. Ma fare la descrizione delle cose che vanno è abbastanza difficile, nel senso che quando aprite Writer trovate esattamente le stesse cose che trovate in Word. Quindi per chi è abituato a usare questo genere di software si ritrova completamente. L'unica differenza che salta all'occhio appena aperto Writer è che gli stili, che sono quella cosa che normalmente in Word sta in alto a sinistra in parte al font, tipo di carattere utilizzato, sono messi invece in evidenza in una finestrella che sta sopra il documento. Questo perché suggerire all'utente l'utilizzo degli stili, che è sempre stata una caratteristica fondamentale di OpenOffice e che dovrebbe essere una pratica di uso comune. Probabilmente molti di voi non sanno nemmeno che cos'è uno stile, nel senso che non viene spesso utilizzato dagli utenti di Word, proprio perché non risulta chiaro. È quella cosa che dice al programma di videoscrittura e come deve formattare il paragrafo, quindi che tipo di carattere usare, che interlinea utilizzare, eccetera eccetera. È molto utile per scrivere documenti lunghi, quindi ad esempio se state scrivendo la vostra tesi in Word è altamente sconsigliabile che voi lo facciate senza utilizzare gli stili, perché quando arriverete alla 100ª pagina e vorrete cambiare il formato del titolo, se avrete scritto tutti i titoli con uno stile vostro comunque definito come titolo, vi basterà un click per cambiarlo, altrimenti dovrete fare tutti i cambiamenti a mano e alla 100ª pagina comincia a diventare impegnativo. È impegnativo soprattutto per gli amici che tipicamente la sera prima di consegnare la tesi di laurea vengono telefonati verso mezzanotte e ah, mi aiuti a impaginare la tesi. Esattamente, quindi diciamo che questa è la prima differenza che si nota, o comunque una delle prime domande che mi fanno le persone a cui ho suggerito di utilizzare OpenOffice. Che cos'è quella finestra volante? Ho scritto. È una cosa estremamente utile, diciamo che nei documenti piccoli non è indispensabile, però nei documenti cominciano ad avere una decina di titoli eccetera, anche perché in base ai titoli o ai formati dei paragrafi si possono creare automaticamente gli indici, cosa altrettanto utile nei documenti di grande dimensione e comunque una buona pratica. Per altre cose OpenOffice è del tutto uguale a Word nelle sue funzioni di base, quindi vi ritroverete completamente. Dio, magari ci saranno qualche differenza qua e là, però alla fine si tratta soltanto di cercare nel menu giusto dove è quel particolare voce che cerchiamo. Tutto il più cambiano qualche icona, perché magari non è identica a quella di Word, ma comunque sempre piuttosto intuitiva. Anche la posizione degli elementi nei menu sono più corrette, più intuitive rispetto a quelle di Word, che spesso mette in posizioni impossibili delle cose che sembrano banali o comunque che uno si aspetterebbe da tutt'altra parte, come ad esempio mettere il formato pagina nel menu file o cose di questo tipo. Ecco, comunque per chi decidesse di passare a Writer ci sono una serie di suggerimenti prima di fare il salto. Tutta la suite OpenOffice non è compatibile con Visual Basic, che è una cosa con cui sono scritti dei componenti dei documenti. Generalmente gli utenti base non utilizzano questi componenti, però se per esempio vi scaricate un modulino che fa delle cose in automatico, che vi fa dei calcoli, oppure che si compila da solo, generalmente utilizza questo genere di scrittura e non riuscite ad aprirlo con OpenOffice. È anche vero che questo genere di documenti sono altamente sconsigliabili. Ma siamo arrivati alla fine, perché il tempo è tiranno, quindi è già in sottofondo la nostra sigla. Comunque riparleremo della suite OpenOffice nelle sue altre componenti. E quindi per oggi vi salutiamo. Un saluto da Marco. Mettiamo dall'inizio la sigla, per favore. No, va bene così. Il caso di riascoltarla dall'inizio e facciamo i saluti come si deve. Che branco di cialtroni. Un saluto anche da Francesco, quindi per la fine della sesta puntata di Cialtroni nello spazio. Torniamo la settimana prossima comunque. Ciao ciao ciao. Ciao a tutti e andate a vedere il nostro sito www.circola.net, progetti Cialtroni nello spazio.